5F. Ascolta e rispondi. Quanti libri mi manderai? Te ne manderò molti. Quanti pronomi mi insegnerai? Te ne insegnerò molti. Quanti consigli mi darai? Te ne darò molti. Quanti segreti ci svelerete? Non ve ne sveleremo nessuno. Quanti compiti ci assegnerete? Non ve ne assegneremo nessuno. Quanti documenti ci consegnerete? Non ve ne consegneremo nessuno.